oltretà scurete. Guarda della paletta rosa che so da lì. La via c'è stata aperta tutta lì, non ce n'è. Se ne è saltata. Cerca di quella qua. Tu l'hai caro a preta, al paso a preta.